edizione. Emilia, il terremoto infinito, così titola questa mattina la Repubblica. Crollano capannoni, industrie e chiese, 16 morti, 350 feriti, si scava tra i detriti. Dedicato naturalmente al terremoto infinito, come davvero in tanti ormai l'hanno definito, le aperture questa mattina dei quotidiani e, per la verità, la gran parte ovviamente delle prime pagine, con ben poche altre notizie che spiccano dai quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera: scosse infinite, paura e morte in fabbrica, perché tra le vittime, le 16 vittime, 10 erano operai e 3 imprenditori che stavano cercando di tornare a lavorare, di tornare alla normalità dopo le scosse del 20 di maggio. Nuovo terremoto sconvolge l'Emilia anche per il Messaggero. La terra trema ancora. La Stampa: terremoto, strage di operai, crollano i capannoni dove era appena ripartito il lavoro, una regione è in ginocchio. Il Sole 24 Ore: colpita al cuore l'Emilia laboriosa, crollano capannoni, le vittime tra gli operai, e oggi al Consiglio dei Ministri le prime misure per la popolazione. Un'altra carrellata di titoli questa mattina. Il Fatto Quotidiano: schiacciati dalle fabbriche, scosse e lacrime, l'Emilia nell'incubo, titola Avvenire. Il Giorno: senza fine, le scosse, ancora 41, ve l'abbiamo detto nella notte. I commenti, le analisi sono molte. Alle 9 il mostro arriva in fabbrica, il reportage sulla Repubblica di Michele Smargiassi. Scrive anche Michele Serra: la mia Emilia, i contadini e gli operai della mia terra ferita, la sola cosa buona dei terremoti che ci costringono, sia pure brutalmente, a rivivere il vincolo profondo che abbiamo con il nostro paese, i suoi posti, la sua geografia, la sua storia, le sue persone. Appena avvertita la scossa, se non si è tra gli sventurati che se ne sono vista sbocciare proprio sotto i piedi, capiamo di essere solo ai bordi di uno squasso tremendo e lontano. Subito si cerca di sapere dov'è quel lontano, ed è forse stata la reazione che in tanti hanno avuto, abbiamo avuto ieri nel sentire la scossa, che si è sentita davvero in gran parte del nord Italia, cercare di capire dove è stato l'epicentro, chi era stato nuovamente colpito. È ancora l'Emilia ad essere nel cuore di questo terremoto infinito, come scrive oggi la Repubblica. E la scienza non lascia tranquilli, l'allarme dei sismologi dicono potrebbe durare anni, così su la Repubblica. Scosse infinite, paure, morte in fabbrica, dicevamo l'apertura del Corriere della Sera, che a centro pagina riporta una delle polemiche di questo sisma: quei capannoni accartocciati, polemica sulle strutture crollate. Il ministro Fornero ha parlato ieri e ha detto: altrove non succede. La difesa è arrivata da Confindustria, che ha detto: non erano capannoni di carta velina. Fatto sta che sicuramente i capannoni e le imprese, le piccole imprese già colpite dalla crisi, dove si cercava di lavorare, sono state le più colpite al cuore in questo sisma. Riaprire le aziende e ripartire, perché fermi non si può stare, ma se la volontà è forte, oggi la natura è stata soverchiante, così Dario Di Vico. Il dilemma ora delle imprese. Imprese naturalmente sulle quali punta l'attenzione il Sole 24 Ore, oltre che sulle vittime, oltre che sugli sfollati. Sono 14.000 il numero, è salito dai 6.000 della scossa del 20 di maggio, ormai a 14.000 con ieri. E allora eccola qui, colpita al cuore l'Emilia laboriosa, sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il viaggio nella capitale delle ferite del Made in Italy, il mio medicale di Mirandole, ancora la ceramica di Finale Emilia, le cantine e macelli di Medolna, le aziende meccaniche di Cavezzo, Carpi, le piccole imprese del tessile. E il futuro che dobbiamo garantire, il commento questa mattina su il Sole 24 Ore. E la polemica, l'altra polemica, sulla prima pagina del Messaggero, a centro pagina, la trovate un po' dappertutto, qui è in particolare evidenza l'appello su Facebook e Twitter del web, che chiede stop alle celebrazioni del 2 giugno. Il Quirinale ieri è intervenuto: parata sobria sarà dedicata alle vittime. Polemica sulla quale punta e con decisione questa mattina la prima pagina della Padania, una prima pagina particolare che copre sia la prima che l'ultima pagina in realtà. Spalare, non sfilare, così scrive questa mattina la Padania, che l'attenzione la punta, oltre che sulle vittime, anche su questa polemica. Allora, come dicevamo, dedicheremo dedicheremo a questo anche gran parte della nostra mattinata. Vi racconteremo com'è andata le 41 scosse della notte, una notte nei rifugi per 14.000 sfollati. Le altre notizie hanno poco spazio, però una breve carrellata comunque la facciamo. La Gazzetta dello Sport, anche qui ci sono scosse, morti, Emilia Stremata, stop alla nazionale, ieri sera non si è giocato, ma c'è anche l'altra polemica che trovate un po' su tutte le pagine dei quotidiani ed è quella della proposta lanciata ieri dal Premier Monti, l'avete sentita anche da Carlo Genta poco fa, forse ci vorrebbe la sospensione del calcio per 2-3 anni, così ha detto Monti parlando del calcio scommesse. A fondo shock del presidente, fuori gioco, così la titolo della Gazzetta dello Sport. Vi leggo il commento di Andrea Monti, giusto una riga basta a farvi capire quello è il tenore dei commenti di questa mattina. L'entrata a piedi giunti di Mario Monti nel mondo del pallone, più per imperizia che per dolo, è un fallo da rigore, cartellino rosso col dovuto rispetto, così Mario Monti. È un coro di no alla proposta di Monti, quella che trovate oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Fermare il calcio, coro di no anche per quanto riguarda ad esempio il Messaggero e poi anche su altre prime pagine, se il calcio si fermasse per 2-3 anni l'amarezza del Premier anche per il Corriere della Sera, Monti shock, il calcio andrebbe fermato anche per la Repubblica, dove compare l'unica altra notizia in più della giornata, arrestato il banchiere Ponzellini, prestiti a favore a potenti e malavita, l'uomo di fiducia di Lega e PDL accusato di riciclaggio e corruzione. Per il resto, prime pagine, dicevamo, per lo più monografiche, allora anche noi nel corso della giornata continueremo a raccontarvi quel che sta succedendo in Emilia. Vogliamo però prima fare anche un'altra parentesi per parlare comunque anche d'altro, almeno per quel che si può, e allora questa mattina vogliamo andare anche a Firenze, dove ieri sera alle 21.30 in via De Benci si è scattata una protesta un po' particolare. In 600 si sono presentati armati di pigiama e cuscino dopo che nei giorni scorsi diversi locali del centro di Firenze erano stati chiusi per le proteste dei residenti, proteste con i cuscini, perché questo era il motto, si deve andare tutti a nanna, dicono i manifestanti. Io saluto il vice sindaco di Firenze Dario Nardella, ben svegliato. Buongiorno a voi. Dove ha dormito lei stanotte? A casa ho dormito, anche se abbiamo avuto un po' di preoccupazione per le scosse di terremoto, ma a casa. A casa, ma ci sono stati alcuni fiorentini che a casa non hanno dormito, come dicevamo. Allora, ci racconta cosa c'è alla base di tutto questo? Il problema viene da lontano, come si dice, nel senso che negli anni si sono concentrati in alcune parti del centro di Firenze molti locali, fino ad arrivare a livelli ingestibili nel rapporto soprattutto con la residenza e nella ricerca di un giusto equilibrio tra la quiete pubblica da un lato e dall'altro il legittimo diritto di divertirsi. Questa concentrazione di locali diventa particolarmente critica con l'inizio della primavera e dell'estate, quando la sera si esce volentieri. Sono davvero situazioni così a rischio? Come ho detto, ci sono delle zone dove c'è una concentrazione impressionante, cioè in una strada si arrivano a trovare 12-13 locali, 3-4 mila persone concentrate. Il problema qual è? È che quando i locali non sono più in grado di ospitare al loro interno, i giovani si riversano per la strada. In più, a causa anche della liberalizzazione del commercio, non vi sono norme che consentono di controllare la vendita di alcolici se non attraverso ordinanze del prefetto e infatti negli ultimi anni sono aumentati moltissimo i cosiddetti mini market, questi negozi che vendono alcolici, pertanto comprano bottiglie intere di alcolici di vario tipo e poi le bevono all'aperto. Allora, questo mix di situazioni porta spesso a degrado e a situazioni anche piuttosto degenerate. Non siete l'unica città in cui è scoppiato questo problema, probabilmente adesso, giustamente come diceva, con l'avvio della bella stagione accadrà anche in altre città, però voi questa mattina avete convocato per oggi una sorta di tavolo di conciliazione con tutte le parti per cercare di arrivare ad una soluzione. Quale sarà la vostra proposta? Ma guardi, la proposta è che ognuno deve fare la propria parte, ci vuole una responsabilizzazione effettiva, anche da parte dei gestori. Non si può immaginare che tutto ciò che succede oltre la soglia del proprio locale non interessi più il gestore. E questa responsabilizzazione noi la vogliamo rendere concreta con un patto tra residenti, amministrazione comunale e gestori, attraverso il quale si stabiliscono delle regole chiare. I gestori controllano che la situazione non vada oltre un determinato limite, gli utenti consumatori si impegnano anche ad avere un atteggiamento civile e dall'altro lato i residenti si rendono disponibili anche a sopportare qualche sera un po' di rumore. Infatti il problema non è militarizzare le città, ma è quello di avere un modello di convivenza civile, e le città d'arte, le città turistiche come Roma, Firenze soffrono molto questa difficoltà, ma è importante che tutti condividano un modello di convivenza di buon senso e civile. Vedremo se oggi riuscirete ad ottenere tutto questo dopo la protesta della notte. Grazie al vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, buona giornata. Buona giornata anche a voi, grazie. Prima edizione. Puntualissimi questa mattina è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. E la mattina del 30 maggio vi saluta qui Daniele Biacchessi. Oggi parliamo di un feroce criminale, anche di un uomo feroce, di uno dei più conosciuti criminali che ha agito negli anni 70. Antonella D'Agostino, amica storica di Francis Turatello, offre però la sua personale visione nel libro Francis Faccia d'Angelo, La Milano di Turatello. Sentiamo il reportage di Paola Ceretta. Francis Turatello, detto Faccia d'Angelo, era il re della malavita meneghina degli anni 60-70. Ha fatto affari con la banda dei Marsigliesi e della Magliana. Ha intrattenuto rapporti con politici di spicco, la P2 e la mafia. Bische, rapine, sequestri, prostituzione, furti memorabili. Era noto per non fare sconti a nessuno e non gliene ha fatti nemmeno Antonella D'Agostino, sua amica storica, nel suo libro Francis Faccia d'Angelo, La Milano di Turatello, in uscita per Le Milieu, in cui, come dice lei, racconta: l'altra faccia di Turatello, molto carismatico, rassicurante, uno che dice mi raccomando, deve andare tutto bene, si attende che nessuno si fa male perché già portiamo via i soldi. Lui non sopportava qualsiasi forma di ingiustizia. Non era un santo, non era poi così cattivo. Le due anime di Turatello, quell'anima spietata con gli uomini che sbagliavano, che non si ricordavano le regole. Il contrapporsi di questo era che lui rispettava i suoi nemici, cioè se ti devo uccidere perché hai sbagliato ti uccido, ma rimane il rispetto, perché tu hai sbagliato in quel momento, ma prima di sbagliare eri un uomo di rispetto. E questo cuore tenero, era questa generosità a 360 gradi, era capace di privarsi di tutto. Il soprannome Faccia d'Angelo. Questo bambino, quando era piccolo, mamma Luisa lo portava da una famiglia siciliana, lei lavorava per questa famiglia e ogni tanto faceva delle marachelle, e la moglie di questo uomo abbastanza potente gli diceva sempre: ah, tu con quella faccia d'angelo ti fai perdonare tutto. La batteria di Turatello. Non erano arroganti, non erano beffardi, non erano falsi. La banda in realtà era una famiglia, era un gruppo di persone molto legate tra di loro, che si volevano bene, che erano pronti a morire uno per l'altro. Carlo Argento, il viceré, braccio destro di Turatello. Era un istintivo, però anche lui cercava sempre di non disturbare, di non essere molto eccessivo. Era uno che parlava molto meno di Francesco. Nello stesso tempo si rendeva simpatico, con questo sorriso che non capivi mai se era serio, se ride veramente, ti dava sicurezza, era molto bello. Infatti Francesco, scherzando, gli diceva sempre: tu sei il più grande playboy di tutti i tempi. Era inquietante e imponente. Carlo faceva paura anche da morto. La Milano di Turatello era una Milano molto più pittoresca, più tranquilla, molto più vivibile. Di amicizia ci si aiutava sempre. Credo che non si troverebbe oggi, soprattutto quelle persone anche di quell'ambiente, no? All'epoca, quando si diceva la mala, si parlava di persone con una morale, con un'etica, che avevano fatto delle scelte, però bisognava rispettarle. Quando succedeva una cosa si riuniva tutti e si diceva bisogna sistemare questa cosa, oppure se facevi uno sgarro pagavi chi eri, a volte pagava pure un fratello, perché mica perché sei mio fratello ti puoi permettere di andare in giro a fare delle pagliacciate. Oggi non c'è morale, oggi vai all'arrembaggio. Avete ascoltato Italia in controluce, torniamo oggi alle 13.30 con nuove storie su Radio 24. E grazie Daniele Biacchessi. 6:38, ancora buona giornata da Anna Migliorati, seconda parte di Prima Edizione. Come già vi abbiamo anticipato, torniamo a raccontarvi quel che sta succedendo in Emilia, quel che è successo tra ieri sera e questa notte. Cominciamo con la buona notizia: alle 21 di ieri sera una donna di 65 anni sotto le macerie è stata estratta viva a Cavezzo nel Modenese, abitava in un condominio di 4 piani, era tornata in casa per recuperare alcuni oggetti proprio durante la scossa delle 9 di ieri mattina, 12 ore sotto le macerie, salva perché a proteggerla è stato un armadio. E allora così il racconto dei soccorritori. È un miracolo, guardate, è un miracolo. Era protetto da un mobile della cucina, guardate. È stata di una fortuna incredibile. Speriamo adesso di salvarla perché non era messa proprio bene. A palazzina penso che avesse 4 piani e la signora si trovava al pian terreno praticamente, in fondo. Fortunatamente in una fase di smassaggio con le macchine operatrici si è sentita una voce della signora che diceva basta, basta, abbiamo fermato le operazioni, abbiamo proceduto a mano e di fatto è stata individuata la donna che poi è stata estratta. Eccolo, il miracolo, dicono i soccorritori. Abbracciamoci, il titolo questa mattina della Gazzetta di Modena. Sulla Gazzetta di Modena, scosse infinite, si legge, scosse infinite come il nostro coraggio. E allora, com'è andata questa notte, come sono andate queste ore di buio per i molti sfollati? Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te Anna, ai nostri ascoltatori che da ieri ci stanno seguendo. Tra l'altro la signora che è stata tratta in salvo è la madre del capo della protezione civile di Cavezzo, e lui stava scavando dall'altra parte del paese e ancora non sapeva che sua madre era sotto le macerie, e appunto è un'ottima notizia. La cattiva notizia è che da mezzanotte ad ora sono state 41 le scosse in Emilia Romagna, 41 scosse nella notte, dove ovviamente regna la paura nei campi e anche nei rifugi di fortuna che le persone sfollate, lo ricordiamo, 14.000 persone hanno potuto trovare riparo, ad esempio nelle carrozze dei treni, ci dicono che sono stati allestiti appunto dei rifugi di fortuna per la notte. Scosse appunto 41, la più forte è stata delle 3:54 con magnitudo 3.4 ed epicentro in prossimità dei comuni modenesi di Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e di quello mantovano di San Giovanni del Dosso, insomma la stessa zona di ieri, anche del 20 di maggio. In tutto sono 16, lo sapete, i morti di queste ultime ore, ma c'è anche un disperso, una persona che si sta cercando, moltissime le persone che stavano lavorando, 10 operai e 3 imprenditori morti sotto le macerie, 350 i feriti che hanno trovato riparo negli ospedali. In totale le vittime tra questo sisma e quello del 20 di maggio sono 23, pensate, moltissime. Noi abbiamo raccolto delle voci di persone sfollate appunto nella notte, sentite che cosa hanno detto. In macchina, a dormire in macchina, dove dobbiamo andare? Già c'è crisi, case abbattute, capannoni battuti, operai che non lavorano più, figli che hanno fame, basta, questo qua è un paese fantasma. Tra l'altro i sismologi lanciano un ulteriore allarme, lo sciame potrebbe durare anni, dicono, quindi la preoccupazione per la popolazione in Emilia e anche in tutto il nord Italia, dove è stata avvertite le diverse scosse di ieri, è molto alta, Teanna. Grazie Valentina Furlanetto. L'abbiamo detto, una notte difficile, vedremo come inizierà questa giornata, continueremo ad aggiornarvi naturalmente. C'è un'altra polemica, che è quella dei danni pesantissimi sulla sicurezza nei capannoni dove si continuava a lavorare dopo il primo evento sismico del 20 di maggio, e allora anche qui sentiamo alcune testimonianze raccolte questa volta da Raffaella Calandra. Sono crollate le pareti, il tetto non abbiamo fatto in tempo a vedere. E poi nella zona di fronte qualche cosa, quasi tutti hanno avuto qualche crollo. Ma perché secondo lei i capannoni? Perché è venuta di una forza incredibile, troppo forte. Ah, si muoveva tutto, saltavano, il tetto saltava sopra le travi di cemento che lo sostengono. Forza di saltare, probabilmente si sono. Sì, non hanno più centrato le travi, sono tornate giù tutto. E allora Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Modena, lo ha sentito Valeria De Rosa. Abbiamo moltissime aziende interconnesse che completano fasi di lavorazione, nel metalmeccanico in modo particolare, ma questo vale anche per il biomedicale. Le dico solamente un numero, cioè circa 150-140 aziende sono associate alla nostra associazione per un totale di quasi 15.000 dipendenti, con un fatturato mediamente complessivo di circa 3,6 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di un comprensorio molto importante che secondo me rispetto ai danni del primo terremoto purtroppo la situazione è molto peggiorata. Ecco, questo è un po' il contesto nel quale noi avevamo un'analisi precisa di tutti i danni della prima fase, naturalmente stiamo solo verificando delle situazioni in notevole peggioramento nella seconda, proprio a livello. Certo. Senta Presidente, rispetto alla prima fase, qual era il calcolo dei vostri danni? Ma guardi, io le posso dire, un calcolo ipotizzato di un'area dove venivano fatti dei ragionamenti anche sulle civili abitazioni, perché le civili abitazioni è quindi un po' indeterminato, però non le sto parlando solo dell'area, diciamo, riguardante la provincia di Modena, ma si poteva estendere quest'area anche su Ferrara e un po' Bologna, si parlava di oltre 1 miliardo di euro. Il nostro comparto parlava di circa 500 milioni di euro, che secondo noi oggi si possono considerare così, questo veramente grandi spanne quasi triplicati. Questa è l'intervista di Valeria De Rosa e naturalmente ai danni economici vanno aggiunti pesanti danni dal punto di vista delle vite umane per l'economia dell'Emilia. Il traffico, e poi cercheremo di capire se è vero l'allarme secondo cui la terra continuerà a tremare ancora per molto tempo. Prima edizione. Allora, che succede? Che succede in Emilia? Perché la terra continua a tremare? Continuerà a tremare ancora per molto. Effetto domino tra le faglie sotto la pianura padana, c'è una bomba ad orologeria. Così scrive questa mattina la Repubblica. Io saluto Gianvito Graziano, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buongiorno. Buongiorno a voi. C'è una bomba ad orologeria sotto la pianura padana. Esagerazione giornalistica o no? Ma guardi, sì, devo dire, mi sembra poter fare delle previsioni, che siano esse catastrofiche o siano esse di assoluta tranquillità da questo momento in poi, è assolutamente impossibile, non riesce a farlo la scienza, non so su quale base, sotto quale profilo si possa dire questo. In realtà stiamo assistendo a un fenomeno che aveva una scarsa probabilità che potesse avvenire in quella zona, almeno questo ci dicevano. Perché si è sempre detto che la pianura padana era zona poco sismica. E allora che succede? Beh, insomma, c'era stata un'impostazione precedente, un'impostazione che fino al 2003 addirittura aveva detto che la pianura padana non era una zona sismica, non era classificata come zona sismica, perché era una classificazione del territorio basata sugli eventi storici. E poiché gli eventi storici davano terremoti intorno al 1500 e 1600 e quindi con oltre 400 anni di assoluta tranquillità, in un primo momento quella zona non era classificata sismica. Quando poi, con lo sforzo del mondo, diciamo, della scienza e della ricerca, si è arrivati invece a una carta di maggior dettaglio, a studi molto più approfonditi, quindi con studi di quelle che erano le aree sismogenetiche italiane, si è visto che lì sotto la pianura padana, l'Appennino, aveva un sistema di faglie che potevano invece generare terremoti. A quel punto la zona è stata classificata sismica, la probabilità che l'evento si potesse verificare era bassa proprio per via del fatto che per 400 anni nulla era successo. In realtà la bassa probabilità non ci rassicura del tutto, perché poi purtroppo c'è una percentuale piccola di possibilità e quello è avvenuto. Lascio sempre sul terreno storico, perché la storia racconta che le terre dell'Emilia tremarono intensamente, ripetutamente, tra il 1570 e il 1574, era l'epoca degli estensi, e in quel periodo tremò per molti mesi consecutivi. È una caratteristica di questo territorio? Non lo si, anche in questo caso non lo si può dire, perché se allarghiamo lo spettro un po' a tutto l'Appennino abbiamo situazioni in cui lo sciame sismico si è esaurito nel giro di pochissimo, nel senso da uno, due, tre settimane al massimo, a eventi invece molto, molto ampi, molto estesi nel tempo. Ricordiamo ad esempio il terremoto del Friuli, che ebbe ripetizioni anche a distanza di mesi. Non è possibile soltanto con uno storico, che è appunto quello che ha citato lei del 1570, attribuire anche un ripetersi, diciamo, del fenomeno. Ecco, in questo senso ancora purtroppo la scienza non è arrivata a darci delle risposte chiare. È pur vero però che riazzerando le lancette con il terremoto di ieri, insomma con il 5.8 di Medulla, in qualche modo oggi stiamo assistendo a uno sciame sismico, abbiamo avuto decine e decine di scosse, e 41 probabilmente nella da notte. Qui a 48 ore i sismologi potranno dirci qualcosina in più. E speriamo quel che succede. Allora, la faglia appenninica in movimento verso nord, questo sta accadendo sotto la terra dell'Emilia che trema. Grazie al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Gianvito Graziano, buona giornata, speriamo, buona giornata. Noi ci risentiamo tra poco con GR24, Peter Bescapè, Diego Rovelli resta in regia, da Anna Migliorati speriamo davvero un buon mercoledì, ma prima di chiudere Prima Edizione questa mattina lo facciamo ancora con le parole del Presidente dell'Emilia Romagna, Vasco Errani, a tra poco. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare.